Ottobre piovono libri. Scrittori leggono scrittori è l'iniziativa che l'Associazione Culturale Azimut propone a Napoli per ottobre piovono libri. Si va alla riscoperta di alcuni grandi libri del Novecento e così quattro scrittori scelgono quattro libri dimenticati. Il primo dei lettori speciali è stato Nanni Balestrini, poeta e romanziere, che ha riletto La Folla, l'opera forse più conosciuta dello scrittore milanese Paolo Valera. Il perché di questa scelta lo ha spiegato lo stesso Balestrini al microfono di Paolo Picone. Perché è un libro che secondo me ha anche una sua attualità, racconta storie di un secolo fa, e in un'Italia molto in trasformazione tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ma in cui ci sono dei fenomeni sociali molto, molto acuti e uno scontro, diciamo, che poi si placherà, poi prenderà altre vie, ecco, che ricorda un po', perché tutto si svolge in una grande crisi economica che c'è stata alla fine dell'Ottocento, ma anche perché stilisticamente è un libro molto interessante, secondo me, perché unisce una forma giornalistica con una forma narrativa, la forma inchiesta con la narrazione, e questo è qualcosa che oggi molti scrittori praticano in modo interessante. A chi lo consiglierebbe? Ma lo consiglierei a dei lettori che sono un po' interessati a una letteratura di evasione, dico una letteratura che a un certo punto affronta i problemi di oggi, i problemi che ci interessano. Insomma, un lettore di Saviano, per esempio, secondo me da questo libro sarebbe molto interessato. Gli altri appuntamenti: domani Tiziano Scarpa, il vincitore dello Strega 2009, legge Il tragico quotidiano di Giovanni Papini. Mercoledì 14 Brizio Montinaro legge Danzare col ragno. Giovedì 15 Romano Luperini si dedica a Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin. Tutte le informazioni sulle iniziative di ottobre piovono libri su www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.